La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Gabriella La Rovere, intanto ben ritrovata, bentornata qui alla prima volta. Alcuni ascoltatori ricorderanno sicuramente la sua storia, il suo bellissimo libro L'orologio di Benedetta. Altri forse si sono collegati adesso e a loro forse ha senso raccontare rapidamente di che cosa parla L'orologio di Benedetta e chi sei tu. Sì, è un piacere essere ritornata, questo sì, a distanza di un anno. E L'orologio di Benedetta racconta la mia vita con mia figlia, affetta da una malattia rara e da una forma di autismo secondario alla malattia. E quindi tutto quello che abbiamo passato insieme, le disavventure più o meno piacevoli, i momenti difficili che siamo riusciti a superare, certe situazioni di chiusura della società, di completo rifiuto, e siamo andati avanti, e quello che era impossibile, cioè che Benedetta non fosse in grado né di parlare né di camminare né di capire, non è stato. Benedetta è tutt'altro. Certo, ho dedicato tutta la mia esistenza, tutta la mia vita a lei, ma sono contenta. Perché tu eri un medico e hai deciso, sì, quando ti sei ritrovata davanti alla diagnosi, sì, della malattia di Benedetta, di mettercela tutta. Proprio infatti una delle cose che tu rimarchi spesso anche nel libro è la diagnosi precoce, insomma intervenire subito, sì, intervenire. E l'altra cosa che emerge nel corso del libro, ma poi la vediamo anche insomma nella vita di tutti i giorni, è avere delle equip, delle persone, dei professionisti a cui rivolgersi veramente preparati. Sì. Noi abbiamo avuto, nella sfortuna, Benedetta ha avuto la fortuna di avere una diagnosi precoce perché per la malattia rara, e quindi si è potuto intervenire subito. Poi sono stata anche doppiamente fortunata perché abbiamo avuto un neuropsichiatra molto coscienzioso che ha fatto un passo alla volta, cioè ha applicato quello che dovrebbe essere la prassi, l'osservazione, capire e poi andare avanti senza sperimentare, senza necessariamente, perché alcune volte non è necessario sparare farmaci innovativi al massimo, cioè cominciamo con quello, con le cartucce che abbiamo. Nel momento in cui queste cartucce non funzionano, allora andremo a qualcosa di più potente. Attualmente si cerca molte volte, devo dire, si cerca di fare sperimentazione, e questo non sempre va bene, ecco questo. E abbiamo avuto la fortuna di avere questo neuropsichiatra, e poi dopo io sempre molto attenta a tutto quello che le capitava attorno. E la tua vita però ha avuto, come dicevi anche all'inizio di questa intervista, dei momenti di bellissima condivisione con Benedetta, grandi gioie che tu ricavavi anche da una fatica immensa, per cui un piccolo successo per te diventava incredibile, e passo dopo passo Benedetta è diventata una ragazza che di fatto ha i suoi interessi, i suoi gusti, un'ironia particolarmente accesa, riesce anche a prenderti in giro, insomma la relazione è cresciuta, e come tutte le relazioni madre figlia ci sono anche appunto questi momenti così in cui vi confrontate anche in maniera divertente. Sembra incredibile se si legge la vostra vita soltanto 15 anni fa. Tu 15 l'hai messa veramente tutta e hai fatto anche molta fatica, questo si può dire, giusto? Sì, tantissima fatica. Però è vero che io sia allora non mi sono mai arresa, ma anche adesso, cioè non si può dire quando diventa adulto, ok, quello che è stato fatto, e adesso così cerchiamo di andare avanti. No, il processo educativo e il processo anche cognitivo continua, cioè non si ferma mai. Se noi pensiamo a noi stessi e vediamo, per esempio, ma anche l'anziano che a 80 anni va all'università e si laurea, sta a indicare che c'è ancora una capacità, una possibilità di crescita. Ecco, io non mollo neanche adesso, questo è fondamentale. Ed è Ed è anche questo che fa sì che Benedetta sia ironica. Questo. Ecco, e però dietro l'angolo, insomma, ci sono tanti interrogativi. Immagino che tu te li ponga, me li pongo io come madre, te li porrai anche tu. Cioè, che futuro garantirà questo paese, l'Italia, a Benedetta e ai ragazzi autistici, come li chiama Nicoletti, TEP autistici? Insomma, che cosa garantirà questo paese, secondo te? Oddio, io spero le cose migliori. Adesso come adesso niente, cioè è vero, esiste una legge sul dopo di noi che è stata adesso approvata e quant'altro, però ancora non si riesce, alcune cose non si riescono a capire nel momento quando verrà messa in pratica e soprattutto se c'è possibilità per le famiglie di poter utilizzare dei fondi per poter costruire un dopo di noi a misura del proprio figlio. Cioè, in realtà le strutture che sono, abbiamo visto gli istituti che, e tutte queste brutte notizie di cronaca, sì, sono cose che sono sempre esistite, cioè le botte, i farmaci, i dati per tenere buoni e per annientare, io la chiamo la lobotomia chimica, queste persone in modo tale che non rompano le scatole, è stato sempre fatto. E adesso viene un po' a galla proprio grazie alla magistratura, a certe cose, a certe i poliziotti che comunque ascoltano, no? Quante mamme sono andate a dire nel passato che magari il figlio aveva dei lividi, che gli era venuto un dubbio ed erano state sempre messe così in discussione, non era vero, probabilmente era caduto, il figlio è handicappato. Queste cose ancora continuano, io ancora le sento dire. Io come mamma di Benedetta ancora sento dire quando la gente non riesce a controbattere a certe richieste che uno fa, subito ti buttano in faccia la disabilità di tua figlia, no? Che è la figlia che non è in grado di intendere e di volere, no? Questo è gravissimo. E quindi noi aspettiamo di capire se è possibile per noi genitori che abbiamo speso tutte le nostre energie per far sì che questo figlio sia diventato quello che è, di non buttare al vento tutto questo, di poter creare un dopo di noi a misura dove il nostro figlio possa stare addirittura in un appartamento, cioè per esempio due o tre famiglie mettersi insieme, prendere un appartamento e fare una, chiamiamola casa famiglia, ma che sia veramente una casa famiglia, non una stanza dove ci sta una, che ne so, un tavolo, una sedia e un paio di letti e lì passano le giornate. No, non va bene. Questo non deve accadere. Secondo te, io ho la percezione che mentre ci sia stato un momento di grande slancio, di fermento, attorno agli anni 70, penso a persone come Basaglia o altre persone, sì, illuminate, e poi a un certo punto il buio. A livello pratico mi sembra che ci siano pochi professionisti, educatori, che sappiano lavorare bene sulle singole disabilità. Allora, non esistono, non c'è una formazione continua. Noi medici siamo sottoposti, e anche i giornalisti, sono sottoposti ad una formazione continua, ogni sì, anno devi fare un tot di corsi e ti devi aggiornare. Ecco, questo dovrebbe essere la regola per gli educatori, ma non solo per gli educatori, anche per i cosiddetti OSS, cioè gli operatori sociosanitari, per i volontari, per tutte le persone che devono, che in qualche maniera sono a contatto con la persona disabile. Questo deve cominciare, non possiamo più stare in mano a gente approssimativa, no? La seconda cosa è che, perché se ne parla e poi dopo non si fa niente? Allora, prima di tutto, perché sono pochi i genitori che realmente combattono. Gianluca Nicoletti si è messo in piazza e grazie a lui siamo arrivati a dove siamo, perché in realtà se non era per Nicoletti noi stavamo ancora a faccia della finestra a capire di che cosa capitava. Allora, sulla base di questo si potrebbe, cioè avendo un personaggio pubblico anche molto determinato, si potrebbe veramente utilizzare e dare un'ulteriore spinta, ma nessuno scende in piazza per i propri figli, nessuno rivendica. se solo noi pensiamo solo alle persone autistiche, e che sono forse censite 600.000, moltiplicate per 3 per fare una famiglia, sono già 1.800.000 persone, ma anche solo 1 milione che scende in piazza e rivendica il diritto del proprio figlio a essere trattato come persona, comincia a essere un numero incredibile. Ecco, molti genitori un po' sfiniti, un po' perché probabilmente non hanno neanche, cioè per loro il figlio è un bambino per sempre. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco con Gabriella alla Rovere e la sua storia di lotta e impegno per Benedetta e tutti i ragazzi autistici o con disabilità gravi. La prima volta. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. La prima volta. Seconda parte della prima volta in compagnia di Gabriella La Rovere e della sua storia, una storia fatta di impegno, di fatica, di grande generosità, perché Gabriella è mamma di Benedetta, nata con una malattia rara e una forma di autismo, un percorso, quello di madre e figlia, che Gabriella poteva tenere per sé, invece decide di mettere nero su bianco tutto quanto in un libro, L'orologio di Benedetta, che è poi diventato un monologo che Gabriella ha portato nelle scuole, nei teatri, come un atto di ribellione al silenzio che troppo spesso avvolge le famiglie che vivono con figli disabili. Ma che cosa serve a questi ragazzi e a queste famiglie, Gabriella? Allora, chiederei sicuramente una formazione nella scuola, una formazione che abbia un senso, dove insegnanti di sostegno realmente siano in grado, ma questo dovrebbe cominciare già all'università. Chi decide di fare questa strada realmente, insomma, si deve formare, deve prendere contatto, deve entrare in questo mondo, e questo è sicuramente la prima cosa. La seconda cosa, io sarei propensa per creare, perché questi ragazzi sono ragazzi, nel senso, noi non parliamo di un animale, un vegetale, certo, o un minerale, noi parliamo di persone che hanno uno sviluppo probabilmente più ritardato, probabilmente complicato, ma anche loro dal punto A arrivano al punto B, quindi parliamo sempre di un genere umano. Allora, perché queste persone devono, per esempio, essere costrette a seguire dei laboratori o delle attività che non sempre sono adeguate? Cioè, esiste adesso, cioè, tenendo presente che la disabilità muove una quantità di soldi incredibile, esistono tutte queste attività che sono dalla musicoterapia, ok, che è stata accreditata, per l'amor del cielo, ma arte terapia, pet therapy, onoterapia, cioè è tutto terapia, quindi ormai il medico è tutto terapia. Quando vai a vedere realmente in che cosa consiste, prima di tutto queste attività vengono condotte da persone che sono aggruppate all'interno magari del gruppo così che fa capo a un istituto, a una cooperativa o quant'altro, insomma, non hanno una formazione adatta. Per esempio, perché un ragazzo non potrebbe dipingere? Perché, certo, deve fare l'arte terapia e non può fare pittura? Perché noi genitori ci dobbiamo accontentare di dare ai nostri figli dei laboratori di serie B? Ma cioè, mia figlia per esempio fa musica, ma fa musica con un professore di musica, e fa musica. Certo, non sta lì a fare il solfeggio perché non lo capisce, ma lei è in grado di suonare a suo modo e viene tirato fuori la sua capacità e lei va a suonare. Perché dovrebbe fare la musicoterapia dove è tutto new age? Questi sono ragazzi, sono persone. Quindi un'altra cosa che vorrei fare è cominciare a far capire che questi ragazzi sono persone e meritano dei laboratori, delle attività che siano sì adeguate alle loro capacità, che non siano laboratori dove dentro ci sono 20 persone, no, devono essere laboratori piccoli, dove il rapporto deve essere uno a due, dove c'è un educatore per due ragazzi, perché per aiutarli, ma bisogna metterli in contatto con l'arte, con la conoscenza, né più né meno che le altre persone. Ecco. È un lavorone. No, però è una cosa che va fatta. E, per quanto riguarda le cose fondamentali, quindi queste sono, o avevi in mente anche qualcos'altro? Beh, io, a me piacerebbe in realtà realmente che da questa legge, ecco, noi genitori potessimo utilizzare questi soldi. Sì. Perché finita la scuola questi ragazzi o vanno o rimangono a casa sfinendo i genitori, ma anche perché poi loro crescono contestualmente ai genitori, oppure finiscono in questi centri di riabilitazione dove sappiamo quello che capita, e quando non capita la violenza capita il nulla. E allora a questo punto questi soldi che vengono dati, allora dateli a dei genitori che fanno dei progetti usciti sul ragazzo in modo tale che abbia la vita con maggior senso, piena di senso, piena di gioia. Deve godere la vita, non deve essere buttato in stanza. Per quanto riguarda la tua esperienza, so che tu sei una persona anche molto attiva, ti sei battuta molto. In prospettiva tu vedi una manifestazione che hai un po' accennato all'inizio, secondo te si sta preparando qualcosa, c'è fermento? Beh, sì, ci vuole il coraggio di scendere. Io tante volte capita su Facebook che faccio delle battute ironiche, che però qualcuno, chi mi segue, invece me l'ha presi del tipo: abbiamo acceso candele, ci siamo dipinte il viso di qualsiasi colore, dall'arcobaleno al blu a quant'altro, abbiamo appuntato sul bavero fiocchetti di diverso colore. Beh, ci sono delle cose che veramente sono ignobili, sono degli orrori, dei crimini contro l'uomo. Beh, ma che stiamo a fare? Cioè, che cosa stiamo aspettando? Perché nessuno scende per questi ragazzi picchiati? Perché nessuno, al di là di mettere mi piace su Facebook, veramente si indigna? Ecco, veramente scende in piazza e, non so, accende la candela e fa quel flash mob e quant'altro? Perché per questi no? Ecco, diamoci una risposta. Senti, Gabriella, un'altra cosa che volevo chiederti è relativa a, invece, se tu hai così un'idea di come si lavora negli altri paesi, cioè se ci sono dei paesi che hanno portato avanti invece nel corso di questi anni progetti che poi hanno portato a una vera e propria integrazione o comunque a un'autonomia dei ragazzi con disabilità. Beh, mi è capitato alcune volte di vedere sia in Inghilterra che in America strutture dove anche all'interno della scuola esiste una parte che riproduce un appartamento, quindi con un cucinino, con la lavatrice e quant'altro, per cui al di là delle materie che i ragazzi con disabilità possono seguire e che sono adeguate alla loro percezione del tempo, che è molto particolare, anche per esempio la filosofia, è inutile starla a insegnare a una come mia figlia, perché il pensiero astratto non fa parte di una persona autistica con disabilità mentale. Quindi in quell'ora che può essere appunto la filosofia o anche la matematica, se non piace, fa una cosa che le serve ad essere indipendente, ma che vuol dire anche riuscire a capire il valore del denaro, riuscire a uscire e magari andarsi a comprare, che ne so, sempre naturalmente con la supervisione di un educatore o di un insegnante di sostegno che dir si voglia, andare al bar vicino alla scuola e prendersi il cornetto. Cioè, questo significa anche gratificare, perché loro si sentono poi veramente dei superman. Io vedo mia figlia quando raggiunge un obiettivo, cioè, è così contenta che noi godiamo di questo influsso positivo per 2 o 3 giorni, mi sembra poco. Per chiudere questa intervista volevo sapere se tu vai avanti a presentare il tuo libro. Allora, io devo dire, è stata una cosa, una, una valanga bellissima di emozioni e di passaparola di questo che era circa un anno fa iniziato un po' in sordina e che poi ha preso piede. Ma ha preso piede la cosa bellissima all'interno delle scuole. Perché io vado anche a presentare il monologo negli istituti, nei licei. Cosa succede? Che praticamente parlo di una realtà a ragazzi che saranno coloro che poi si dovranno in qualche maniera occupare in maniera diretta o indiretta di mia figlia e di tutti quelli come mia figlia. Quindi ho iniziato a Molinella. Grazie a veramente alla lungimiranza di un'associazione locale, un'associazione si chiama Di Core, insieme poi a una estrema illuminazione della professoressa Bonzi, praticamente io ho recitato davanti a 450 studenti. Questa è stata un'esperienza bellissima che mi ha dato tanto e che replicherò, perché adesso ad aprile ritorno nuovamente in Emilia Romagna, prima a Budrio nel teatro comunale davanti a 500 studenti del liceo e successivamente il 20 all'Antoniano di Bologna altri studenti. Quindi alla fine io parlo dei problemi della disabilità alle giovani generazioni perché sono loro, cioè mi sono rimasti solamente loro, perché coi vecchi tocca veramente, ormai non so più, sono senza speranza. L'unica mia speranza sono questi giovani e io vado a cuore aperto e gli dico com'è la realtà. E loro cosa ti rispondono? Ma bellissimo. Una cosa che non credevo, prima di tutto perché a me, avendo una sola figlia, un po' è mancato, no? Potermi confrontare, chiamiamolo, con ragazzi che non hanno problemi di salute, così come le ha avuti Benedetta. E quindi vengono, c'è chi con le lacrime, chi mi abbraccia, chi mi incoraggia. Come si fa, no, con l'anziano, dai, vai avanti che ce la puoi fare. E quindi sì, no, è bellissimo, è un'esperienza la più bella di questo anno, veramente, veramente. E Benedetta cosa dice di questa cosa, del libro? Benedetta dice una sola frase, che è emblematica, è che mamma tu sei famosa grazie a me, e con quella chiuso. E credo che, cioè, non gli posso dare torto, se non avessi scritto questo libro, beh, non sarebbero capitate queste cose, non avrei conosciuto tanta gente, anche ho avuto modo di non solo di conoscere, ma poi di diventare amica, di sentirmi con tante persone, quindi molto bello. E questo serve anche a Benedetta, perché Benedetta ha tanti amici anche lei, quindi alla fine io penso che nel dopo di noi me ne potrò andare anche tranquilla, perché ho seminato talmente tanto che qualcuno si occuperà di lei, questo sì. La prima volta termina qui. Vi rimandiamo alla nostra pagina per riascoltare le puntate, oppure se volete venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook Radio 24 la prima volta. Vi ringrazio per essere stati con noi. Un saluto da Cristina Carpinelli.